Cari fratelli e care sorelle, come avete passato la Santa e Santissima Pasqua, che è rappresentazione del corpo del... non so, non li conosco io i sacramenti, non li conosco e quindi chi se ne frega. Benvenuti a questa puntata speciale Runtime proposta dal qui presente Walter Sbano. Ciao Walter, quali erano le tue buone intenzioni? Quali erano? Dici, forza, forza. Godere di questo momento di gioia e giubileo chiusi in casa come da tradizione, perché tutti gli anni si fa questo, no? Non c'è differenza. Si mangiano gli avanzi del giorno prima. Tra l'altro, la presa per culo, lo sapete qual è? Che la Pasqua, se vi ricordate, storicamente piove sempre. E infatti ci ha inculato, perché oggi è una bellissima giornata. Ma pure ieri, perché tutto sommato ieri era una bellissima giornata. Ora io non so in Terronia, lì dalle parti della Puglia, tipo da Puccio. Da noi di solito fa cagare, oggi c'è il sole, poco vento e fa abbastanza caldo. Ragazzi, la norma è proprio una delle leggi di Murphy, sono i corollari alle leggi di Murphy che dicono che non importa quando fai Pasquetta, puoi anche spostarla al 15 d'agosto, pioverà. Oggi ovviamente è una bellissima giornata. E invece proviamo a spostarci un po' più su, dove insomma in teoria le condizioni climatiche potrebbero essere uguali, penso, un po' uguali. Francesco, com'è da te in quel di Reggio Emilia? In quel di Reggio Emilia le condizioni sono quasi uguali, da ciò mi viene il sospetto che ci sia stata una traslazione spazio-temporale, tipo che io mi affaccio e posso vedere me stesso allo specchio oppure te, tipo... Ora si è approssimata una nuvolina che promette almeno di rimediare a questa arrabbiatura che dice cazzo è Pasquetta, stiamo tutti chiusi in casa, è buon tempo. Però bene o male il tempo mantiene, però a compensare tutta questa gioia comunque a sua volta c'è della gente al piano di giù che si sta scatenando, ma con musica neomelodica, urlare, come mi è arrivata adesso comunicazione di una persona che abita qui dentro, però da un'altra stanza, che mi ha scritto: ma questo che urla sempre come un maiale sgozzato, ti giuro che per me ha avuto una ischemia cerebrale o un'emorragia cerebrale che l'ha lasciato stronzo, forse una caduta dal seggiolone da piccolo e ha preso troppo sole abbandonato in una macchina. Secondo me è molto plausibile come, cioè, tutto questo insieme in un insulto solo, insomma, è stato molto deluchiano da questo punto di vista, anzi forse per un attimo ho percepito la catarsi di Lobby in Marco Gualdi, che non c'è, quindi ho sentito quel modo di fare cronaca che mi ricorda tanto i balconi di Monterotondo. Mi fate salutare al volo gli amici che ci stanno già ascoltando in chat, perché abbiamo Zinuschi. C'è anche Michela. Scusate, hai ragione, vai. Le persone. Vai Michela, ciao Michela. Ciao a tutti. Si stava sdegnando, perdono. Era tutta sdegnata, stava lì. Ciao, io stavo qua, buona, aspetta che mi chiamavate in causa. Ti chiedo scusa. Adesso vai a cucinare. Non è ancora ora, tanto presto, dobbiamo cucinare presto, qualcosa presto. Di molto semplice. Salutiamo la chat, Sbano. Sì, no, a parte zio Mischi che dice che Salerno il tempo è uno spettacolo, volevo leggervi questo flebile filo di speranza che ci porta Daniele Goretti da Firenze, perché dice: in provincia di Firenze è nuvoloso. Oh, come è giusto che sia, diciamoci anche la verità. Esatto, come dovrebbe essere da tradizione. E appunto poi Michela raccontava il discorso, no, del cucinare ma poco, cose semplici, perché immagino che un po' per tutti oggi valga la regola sfondarsi di tutte quelle cose che sono avanzate ieri. Ti assicuro che da noi non è avanzato niente. Anche perché, vabbè, facciamo un attimo un escurso. Dove abbiamo passato la nostra Pasqua? Allora, abbiamo passato a casa, chiaramente, no? Noi perlomeno, poi l'altri, insomma, non è proprio pervenuta la cosa. E praticamente noi abbiamo ordinato, anzi, già da sabato mattina noi abbiamo fatto questa cosa molto carina. Ci siamo fatti portare una colazione a casa da un bar, perché il bar riapriva e dice: facciamo le colazioni a casa. Non è che ci avessimo bisogno della colazione a casa, però incentiviamo, dammo una mano, supportiamo. E quindi abbiamo detto: vabbè, portaci questi due cappuccini, questi cornetti a Nutella. Anche i tramezzini abbiamo fatto portare per così, lo snack. Dei tramezzini per lo snack, così. Ma non perché ne avevamo bisogno. Perché il viaggio ci avesse senso, almeno ci pagava la benzina. Siamo sacrificati, diciamo che ci siamo sacrificati. Insomma. E ieri ci siamo fatti portare, sempre da un ristorante, il pranzo di Pasqua. Molto buono, molto buono. Devo dire, 20 euro per il pranzo di Pasqua. E uno dice, vabbè, però vedi, Vendeure. Ma Vendeure a persone. Ci manca. Ma Alex non c'è, cazzo, non c'è. Purtroppo non ha potuto. Loro stanno spadellando, mi sa. Stanno spadellando, facendo qualcosa, insomma, non lo so cosa. Vabbè, non entriamo nell'intimità di Alex. Spero, spero per loro che sia qualcosa di buono. Lui, insomma, spero che ci stia ascoltando, perché abbiamo già detto in prediretta, cioè, o meglio, a canale chiuso, che poi comunque quest'autunno faremo due conti. Verso novembre. Esatto. Non lo so, non ho capito manco io, però. Lascia fa, lascia fa. Ah, sì, sì, ok, ok, ah. Sì, bene. Vabbè, oh, se mai fosse. No, pretermina a novembre. Peggio per loro. C'è un motivo per venire su a Milano. Io vi dico solo che mio padre si sta organizzando. No, infatti è vero, è gennaio, abbiamo contato male, vabbè. No, oddio. No, dipende quando è portato. Dicembre, gennaio, barra febbraio. Vabbè, la barra. Siete più esperti di me, almeno un paio di volte. Io ce ne ho due. Sì. Io ho fatto un tempo a dimenticare. Il mio c'ha 20 anni, quindi anzi, ho detto, mi raccomando. Anzi, in questo periodo poi hanno preso in affidamento un cagnolino. Che bello. Che ci ha avuto delle difficoltà, che viene da una situazione particolare, quindi si sono messi a disposizione da una mano. Bello, e fanno prove, dato che non possono fare niente, però fanno prove di come è sacrificante la vita, insomma, con un essere in più. Vabbè, io ero rimasto a sti 20 euro, una persona, sì, 20 euro a persona, e diceva, però è economico. In effetti era economico, però diciamo che la verità, la roba era buona. La roba era buona, però ci avevano promesso la corsa, a parte la corsa. Che mancava, c'era scritto Coratella. Tu non mi hai portato a Coratella. Un po' purciaro, diciamo. No, però vabbè, ci sta. Preciso. Nel senso, non possiamo fare critiche come se fossimo in condizioni normali. In altre condizioni li avrebbe stemmiati. In queste condizioni posso capire che, insomma, stanno cercando di fare del loro meglio. Invece, Smano, tu che hai fatto a Pasqua? Che hai fatto? Guarda, io per cercare di dare una mano, come dicevi tu, dell'economia, in realtà ho ordinato una bella pizza con le cipolle e il tonno. Però questo, ovviamente, non a Pasqua, era venerdì sera. Quindi, insomma, ho cercato per quello che ho potuto. Da solo non è che posso far girare chissà quanta economia, però insomma, l'ho fatto anche per togliermi lo sfizio di una bella pizza saporita. Io sto da solo, almeno mi mangio la cipolla. Detto questo, Pasqua cosa ho fatto? Ho applicato quel meccanismo che tante famiglie, soprattutto centro-meridionali, conoscono, e cioè quello di fare pasta al forno come non ci fosse un domani. L'unica cosa particolare, insomma, della giornata, ma veramente un cofano che penso che non c'entrerà neanche nel freezer, per quanto ce n'è. E poi basta, niente. Ci potevi riparare il tettino dalla macchina. Eh sì. E poi niente, bottiglia di vino rosso. Il pranzo di Pasqua è andato così. Il resto della giornata è un po' triste, lo dico così. Non odiatemi. Mi sono messo a vedere i film degli Avengers. Non c'avevo niente da fare. Ma è successa una cosa grave ieri. È successa una cosa gravissima. Scusa, Michela, ti interrompo, perché Michela a un certo punto diceva, noi ci dovevamo vedere un film ieri. Poi adesso siamo anche agli altri due. Poi ho detto, vabbè, ma non me vado a vedere un film. Mi metto a letto. Vabbè, quella è, vedi, però se c'era per proiettore, vabbè, ma dai, mi metto a letto. Quella. Poi a un certo punto sento delle persone che cantano. Dico, ma che te stai a guardare? E niente, ho fatto abbonamento a Disney Plus. Ma perché? E mi sono guardata gli Aristogatti, mortacci tua. Cioè, non ho fatto una cosa del genere. Vabbè. Come Bruto che pugnala alle spalle il padre, uguale. No, guarda, una soddisfazione pazzesca. A parte che è durato pochissima un'oretta, è finito. Già veramente non mi ricordavo fosse così breve. È arrivato a Girasole, che salutiamo. Ciao Gira. Comunque sì, i classici Disney, soprattutto quelli di una volta, sono abbastanza brevi, anche perché all'epoca animare non era proprio facilissimo. Ci mettevano un anno e mezzo, poi. No, anche di più anche. No, anche credo due, di sì. Più, adesso ce ne mettono uno e mezzo. Circa, sì. Ah, io Disney Plus però sono favorevole, Simone, devo dire, noi l'abbiamo preso day one con la scusa di no, vabbè, per la bambina, un cazzo. No, ma noi abbiamo fatto una cazzata, perché lo dovevamo prendere quando c'era l'offerta quella a 59 euro, quella annuale. Vabbè, sì, vediamo, dai, sono 10 euro di risparmio annuale, su un anno. Alla fine è relativa, vabbè, dai. Insomma, ma diciamo che abbiamo pure provato a circuire Burigana, a sapere se tante volte c'era qualche cosa di gratis, sai, siamo noi, gli amici tuoi, ma proprio lui è indefesso, quindi. Che ne sa lui, scusa, indefesso. Vabbè, allora, Puccio e Francesco, invece voi come avete proceduto? Noi l'abbiamo passato insieme, perché ci ha chiamato? L'abbiamo passato insieme. non mi sarebbe dispiaciuto. Però vai, vai tu, Puccio. Io davvero non c'ho un cazzo da dire. Scusate, ecco, non aiuto. Vabbè, capirei io. No, no, noi. Mia moglie ha fatto le lasagne, la pasta al forno separata, perché mia figlia lasagne non tanto, preferisce la pasta al forno, che ha preso da me in certi frangenti. L'hai già rovinata sta ragazzina. Sì, mia moglie dice che effettivamente, cioè, l'effetto, cioè, ci deve essere parte del patrimonio genetico console che è trasmigrato in mia figlia, grazie a Dio. Esteticamente no, però devo dire in alcuni atteggiamenti mia figlia mi somiglia parecchio. Vabbè, ma anche l'imitazione, no, no, no, no, no, perché io a tavola non faccio, cioè abbiamo tutto un sistema per non farle capire le cose. No, quindi lasagna, però mia moglie si è vergognata perché era solo doppio strato e lei sotto i 4 non è lasagna, è una pallida imitazione. Poi sotto i quattro strati è Lombardia, è Lombardia, in effetti sì. E poi abbiamo avuto un'infornata di biscotti vari, mela, marmellata, cioccolato. Vabbè, vedrete le foto prima o poi, perché ovviamente mia moglie ha fatto il book fotografico di tutta quanta la preparazione. E poi il resto della giornata, vabbè, un po' abbiamo visto un po' di cartoni animati, abbiamo provato a vedere il ritorno di Mary Poppins su Disney Plus, perché ci incuriosiva tutti quanti. Solo che, diciamo, c'è stato un lieve incidente che in off-air stavo spiegando ai miei colleghi. In pratica io e mio figlio abbiamo fatto un gioco divertentissimo. Io ho fatto Peter Winkman e mio figlio Pietro di 4 mesi ha fatto Slimer, con la differenza che la sostanza di cui ero coperto non era verde. Quindi questo ha causato una serie di problemi sanitari e logistici tra lavaggio mio del bambino. Poi la sera ci siamo finalmente riusciti a vedere un DVD che avevamo comprato prima della quarantena, che è il diritto di opporsi, il coraggio di opporsi, non mi ricordo, il diritto di opporsi, che sono sicuro mia moglie volesse vedersi per la trama. In realtà mia moglie ha una certa predilezione per Michael B. Jordan, l'attore che ha fatto Creed nei due film nuovi, quelli su Adonis Creed, e che faceva l'avversario di Pantera Nera nel film della Marvel. Quindi sono sicuro che mia moglie questo film l'abbia scelto per la trama. E poi ci siamo addormentati tipo a piombo appena è finito il film. Ma che bella Pasqua, ragazzi. Invece a Monterotondo la gente era passata meglio di noi. Andavano in giro, andavano a casa degli altri, insomma, ce ne siamo accorti quando vedevamo gente che scendeva da casa degli altri. No, ma più che altro la confusione che si sentiva. Gente che chiacchieravano tutti. Allora, cose, niente, va tutto a posto. Ma ragazzi, io vi invidio perché mi sembra di vedere un picco, tondo parallelo alla vostra. Ci sarà un picco. Prego, scusa. Terotondo nuovo focolaio, dici? Esatto. Ma vai, scusa, ma nel senso da dargli fuoco, scusa Walter. No, no, figuratevi, dicevo, io vi invidio perché certe volte mi sembra di vivere in una Monterotondo parallela alla vostra, perché la via di casa mia, che comunque è una via relativamente importante perché c'è un centro analisi abbastanza famoso vicino, c'è l'ufficio postale, c'è una banca, non succede un cazzo di niente. Nell'ultimo fine settimana l'unica cosa che è successa, che peraltro è stato un tormento che forse sentite entrare nel microfono anche adesso, è che c'è un guasto al sistema d'allarme della banca sotto casa mia, proprio sotto il mio culo c'è una banca, e praticamente a momenti alterni, a fasce orarie alterne, comincia a suonare la sirena, 5 secondi sì, 5 secondi no. Questa cosa può andare avanti per mezz'ora come per due ore. Ah, bello, bello, bello. L'unica cosa che sta succedendo, per il resto non si muove una foglia. No, no, qui c'è stato agitazione, movimento, insomma. Ma macchine che venivano, macchine che andavano, gente che parlava di fuori, non so, si mettevano un po' fuori, un po' sì, sai, quelle persone che tu dici, vabbè, ma in realtà magari stavano andando a fare altre cose, però, cioè, la busta di pasticcini in mano. Insomma. Allora, che sicuramente molte famiglie geograficamente vicine si siano riunite è un dato di fatto che evito anche di discutere, perché poi io mi rendo conto che mettendosi nei panni degli altri, sì, è giusto essere anche un po' rigidi perché vogliamo uscire da questa situazione, però anche diciamo un minimo di comprensione. Ieri ad esempio un amico ha mandato una foto su un gruppo, cioè, comunque io vado a casa di nonna. Cioè, nonna amore, cioè. Io ho capito, Simo, però se stiamo tutti chiusi da 45, io ho fatto il conto, ieri erano 42 giorni che stavo chiuso in casa, oggi 43 e sto bene, probabilmente. Andiamo a fare la spesa, andiamo comunque in farmacia, cioè anche le piccole chi cose lavora come noi o roba del genere, insomma, comunque bene o male un contatto ce l'hai, no? Nel senso, se ti fa contenimento, ti fa. Io capisco che c'è una situazione che uno vorrebbe, però per un anno, se nella tua vita non succede niente, insomma, è questo che voglio dire. No, allora a quel punto cerchiamo di fare tutti quanti, perché hanno fatto io il sacrificio, non siamo andati da Matteo, Matteo non è venuto da noi, perché l'arti devono fare quello che cazzo gli pare, no? Anche noi, sì, sì, no, ma ripeto, ragazzi, io sto cercando di trovare, come dire, un equilibrio tra due cose altrettanto, come dire, comprensibili. Quello che dici tu è oggettivo, è sacrosanto, e voglio dire, sono il primo che sta applicando questa cosa. Però ecco, quando vedo le foto dell'amico in un gruppo che ha mandato le foto in cui apriva l'uovo di Pasqua, e nella foto c'erano anche... nella foto non era a casa sua, ma era a casa dei genitori, quindi mi rendo conto che lui ha preso e si è spostato, magari di un chilometro, però si è spostato. Però che gli dici, brutto stronzo, che vai a pranzo a Pasqua dalla mamma e papà che non vai da un mese? E non lo so se me la sento di rinfacciarglielo, sinceramente. Poi dentro di me mi ci incazzo, però non l'ho fatto. Io me la sento perché io, sinceramente, non vedo mio figlio da un mese, perché comunque stiamo rispettando le regole. Allora, questa è una questione proprio se tu c'hai il diritto di vedere tua madre e tuo padre dopo un mese, allora pure mio figlio può venire qua, cioè, capito? Se tutti dobbiamo rispettare le regole, ma soprattutto io non dico, cioè, riescono a rispettarle le persone magari più in difficoltà di noi. E non riesci a rispettarlo tu, che magari, cioè, una frittata te la potevi fare da solo, capito? Ripeto, io da un punto di vista, come dire, logico e oggettivo, sono perfettamente d'accordo. Però ripeto, mi manca quel, come dire, quel guizzo di dirgli brutto stronzo. E sinceramente cerco di passarci sopra entro certi limiti. Se un amico, cioè, mio, io dico brutto stronzo. Ma io, se mi capitava, cioè, nel senso, ci avessi avuto la certezza che quello che stava a dire era così, cioè, chiamavo proprio i carabinieri. No, se era un amico mio, comunque non delatore. Non mi frega un cazzo, ma non ho capito, raga, ma stiamo scherzando. Perché noi, cioè, se siamo stufati, qua rischiamo di non lavorare. Voi dovete tenere in considerazione che Michela ieri, o l'altro ieri, non mi ricordo, andava a fare la spesa, un suo zio, perché diciamo pure le cose come stanno, un suo zio che dovrebbe stare in quarantena perché la madre è malata, se non morta, di Covid addirittura, sì. quindi una delle pochissime vittime ci sono state qua, avrebbe dovuto stare in quarantena, stava a fare la spesa, cioè stava al forno a comprare la pizza di Pasqua, al negozio quello quello che era, insomma, no, capisci? Cioè, uno lì avrebbe dovuto strillare, guarda che quello dovrebbe stare in quarantena, perché quello potenzialmente ha messo in pericolo un'altra 10 persone. Cioè, è quello il problema, non ragazzi. Ho capito, una persona che era stata a contatto con l'infetto, quindi oppure in realtà probabilmente dovrebbe aver finito la quarantena, perché lui sua madre è morta in una casa di riposo, nella famosa casa di riposo del Nero, l'aveva vista circa 15 giorni prima di tutto quanto, quindi gli avevano detto comunque di stare in quarantena non so per quanto, quindi io non gli ho chiesto perché io sono stata lontanissima, perché io paura. Cerchiamo di vederla, diciamo, nella accezione meno grave possibile, e cioè magari la quarantena aveva finita, ciò non vuol dire che te ne vai in giro allegramente. Poi l'ASL ti manda un foglio, ti manda un foglio in cui attesta che spero che lui comunque poteva uscire, perché la quarantena aveva finita. Al di là di questo, no? Cioè, nel senso, oggi va bene il discorso che fa magari Walter, e lo posso accettare, perché uno dice ok, fra 15 giorni se troviamo 500 malati a Monterotondo, lo sappiamo perché, cioè, oggettivamente questo è un problema, che ieri comunque anche tutti i controlli, tutte le multe, quello che cazzo mi pare, la gente non ha ancora capito, e non soltanto, sono mancati i controlli, allora, a questo punto, perché se deve essere in contenimento, deve essere in contenimento, ragazzi. Beh, però Simone, anche lì lo dicevamo nella prediretta tra di noi, c'è stato un enorme numero di controlli, tant'è che sulla Pontina si sono formati 10 km di coda, perché si sono messi a Cuneo due pattuglie della polizia e non facevano passare. Certo. Però se a fronte di questo il 2% sono state le sanzioni, evidentemente, come che ci piaccia o no, chi girava aveva il diritto di farlo. Ora io non riesco a capire bene dentro di me come e perché, però i numeri stanno dicendo questo. A fronte dei 280.000 controlli dell'11 aprile, quindi del giorno prima di Pasqua, le persone sanzionate sono 12.514. Che so, comunque. Denunciate per farsa attestazione. È l'1%, Simone. 104. Ah, 104. Sì, cioè, capisci che comunque. No, su 200.000, 12.000. 280.000. 280.000 persone denunciate in osservanza del divieto di allontanarsi, quindi per persone in quarantena, eccetera, 53. Vabbè, 5%, non 1%. Quindi però un pochettino cresce rispetto al giorno prima. Aspetta che ce l'ho i dati qua, perché c'è il Ministero della Difesa che mette tutti i giorni, infatti potrebbe uscire anche il quello, diciamo, di che il giorno prima, il 10 aprile, sono stati controllati 301.000 persone, multate 10.000 persone, quindi comunque il controllo è più... No, il problema è che quello è il massimo che tu puoi fare come controllo. Allora a quello punto dico, fate scendere in campo l'esercito o tutte altre strutture di controllo. Ho capito, questo... no, continuiamo a ragionare in percentuale. Se su 300.000 ne multi 10.000, vuol dire che se su 3 prima, milioni ne multi comunque l'1%, non cambia. Devi sempre considerare la discrezionalità del vigile, del carabiniere, sì, del paese che conosce il tizio, che dice vabbè a te te lascio andare, e quanti sono rispetto a quelli che tu poi multi, perché magari sono quelli che non conosci. Ma cioè, io credo che in questo tipo di condizione, con lo stato d'animo reciproco, io non credo che le forze dell'ordine faranno particolari sconti, Simo, perché sai quanto gli erode. Però no, magari ti mandano a casa. Dice Giacomo, ok, l'1%, ma io mi diverto, non mi diverto a stare a casa, è quello che diciamo tutti. L'1% è comunque troppo, cioè nessuno di noi si diverte. Io sono d'accordo, però l'1% è una percentuale che devi mettere in conto, è persino poco rispetto all'indole italiana media. Io mi aspettavo il 20% dei cazzari in giro, ecco, non il 2%. Beh, ma perché tu parti da una tua considerazione, che è quella che il carabiniere lo del culo e quindi ne fa molto. Io ti dico che il carabiniere, per me, quindi il mio punto di vista è completamente inverso. Che il carabiniere dice vabbè sti cazzi, tanto alla fine chi se ne frega, cioè, perché secondo me non è comprensibile, no? Cioè il fatto che tu passi con un elicottero sui tetti di Palermo e la gente si sta a fare le feste, e invece da noi, no, sulla Pontina soltanto 10 sono stati multati, cioè c'è qualcosa che non funziona in questa cosa, no? Poi cercheremo, vabbè, tanto poi sono i risultati che ce lo diranno un giorno. Simo, però scusa, inverti il ragionamento. Quando questi carabinieri che tornano in caserma dal turno e dicono di aver controllato 1.000 e multato 5, ti pare che qualcuno non gli chiede conto? Non lo so, dai, vabbè. Comunque non entriamo nel merito. Sulla base di chi gli chiede conto? Io ti dico io non ho multato questi, che vuoi? Cioè, come mi dimostri che ho sbagliato, che ho fatto male, cioè, il mio lavoro? Quello che voglio dire io è che il sentimento comunque di dire ok, sentimento io posso di bestemmia, no, ma quello a prescindere, però non è stata sonuata di morte di bestemmia questa, esatto. Cioè, tutti stiamo facendo dei sacrifici enormi, e quindi non mi sento se qualora insomma qualcuno che vedessi qua, a persone a cui voglio bene, io comunque non mi sento di dire scusate, ma perché voi sì e io no? Cioè, perché? È tutto là il problema, ma penso che sia per tutti. Sì, ci deve essere un organo di controllo che deve controllare tutto quanto, però qualora insomma siano delle persone che conosco o comunque vi esorto a farglielo notare, perché sennò qua non mi esorto a andare a fare l'ultimo. Comunque ragazzi, prendiamo il lato divertente di tutta questa cosa. Sapete che c'erano dei militanti di Forza Nuova che avevano annunciato che avrebbero fatto un corteo verso piazza San Pietro, no? Così, senza senso. Perché? Sì, perché devono strumentalizzare Dio e la Chiesa a fini assolutamente ridicoli. Fatto sta che hanno provato a fare questa... Da quando c'è questo grosso ritorno dei fiamma dei fascisti con la Chiesa? Da quando? Cioè, no, i fascisti si sono sempre appropriati... Sì. In contrappasso al comunismo, che ovviamente rinnega l'esistenza di un Dio, loro si sono sempre appropriati di un Dio, anche se poi nella Bibbia c'è scritto di non far male al prossimo e loro non fanno altro, però vabbè. Di non far male al prossimo. Non far male. No, ma la cosa bella c'è dalla... Però scusa, chiudo solo questa cosa. Sì, erano quattro stronzi, scusate il termine, a fare questa sorta di corteo. L'hanno presi, se li sono bevuti, li hanno portati in caserma, multati e denunciati. Vale. Da Antologia, un commento su... cercato di bruciare la bandiera. La bandiera ignifuga, sì. Moriamo anche di bestemmie, Alex, perché non ha partecipato alla diretta, perché sta a fare il bar. Cioè, grazie, dire, Alex. Tre minuti e mezzo al telefono per salutare la gente, lo dire comunque. Anche noi dovevamo... Muori di bestemmie questo bar. Comunque su Twitter di Repubblica, sulla notizia di ieri di quelli là bloccati che hanno cercato di fare la processione, là da Antologia un commento che ha scritto un tale Vincenzo Acunzo, che ha scritto: bene ma non benito. No, ma il tweet loro è delirante, cioè hanno scritto una roba del tipo: siamo arrivati, ci siamo ripresi il sagrato della chiesa, qui siamo stati fermati, portati in questura, identificati e multati perché sacerdoti e vescovi non curanti della loro missione hanno pensato bene di cedere alla dittatura sanitaria dell'OSM e del potere cinese di Conte, signore. Fascisti su Marte. Scusate, veramente farmare possiamo c'è tutto, Giacomo, cioè, farmare qua è una vecchia storia. Che scusate, ma vi giuro, devo trovare il Twitter di Corrado Guzzanti, glielo devo sottoporre e dire: facci il regalo di Pasquetta, leggicelo con la voce di Barbagli. Scusate, a proposito di Twitter, perché nel tweet che annuncia questa diretta c'è l'hashtag tette? Io ma metto così, sempre la hashtag tette ogni diretta. È una tradizione di OGM. Ah, ok, vabbè. Scusate, me ne ho mai accorto. Ci sono 5 hashtag, tra cui uno è sempre tette o culo. Ah, ok, va bene. Giusto, sono d'accordo. Si chiama indicizzazione. Sono troppi gli hashtag e poco strategici, ma noi ce ne sbattiamo le palle. Va bene. No, beh, vabbè, l'importante dai, è che tu non mi abbia chiesto come mai negli snippet esce il faccione di Alex, che più, quello è più divertente. Quello è strano, però è la prima immagine che viene generata quando si fa il parsing in automatico della home page di Runtime. Succede solo se metti runtimeradio.it nei tweet, snippet, così si genera quello snippet. Vabbè, insomma. Vabbè, Alex è il volto di Runtime, mettiamola così. Va bene, l'importante va bene. È che si limiti ad essere un volto per Runtime. Tra l'altro salutiamo tutti quelli che ci hanno Davide raggiunto Gatti nel frattempo, perché c'è Davide Gatti che però si assenta per fare un aperitivo, ci ha raggiunto Al 9000, ci ha raggiunto Giacomo Alessandroni, ci ha raggiunto Alina, insomma siamo un po'. Grazie ragazzi. A voi come sta andando questa Pasquetta? Scriveteci qualche cosa in chat che la leggiamo. Sì, che state facendo? Ma io sono curiosa di sapere la Pasquetta di Buccio, perché oggi ha scritto proprio un post liberatorio, quindi io ho accolto la sua liberazione conoscendolo, quindi ho detto oggi che amarezza. No, che ragazzi, io ve lo scritto, che hai scritto? Ho scritto best Pasquetta ever. Conoscendoti. No ragazzi, vi spiego. Allora, il problema serio è che questo in realtà mia moglie sarebbe d'accordo con me, poi magari la chiamo e vivo. Noi abbiamo sempre avuto questo problema della Pasquetta, perché ci hanno sempre invitato in giro, però un po' le distanze rispetto a dove dovevamo andare, tipo per arrivare dalla famiglia di Clelia sono 400 km andata e ritorno, un po' c'ho altri problemi, un po' la stanchezza che comunque sia io che mia moglie ci siamo spesso portati dietro per motivi lavorativi. Pasquetta è sempre stato un po' un dito al culo, detto proprio chiaramente. E vabbè, il più delle volte comunque sì, siamo usciti, siamo stati con gli amici, siamo stati in giro. E in realtà la cosa divertente, al di là del... Scusate, ho avuto un ritorno terrificante. Ok, sto dicendo, la cosa divertente non è stato tanto io che scrivevo sta cosa, perché da me le persone tendenzialmente se l'aspettano, come avete dimostrato, quanto un mio amico Adriano che ha scritto: ma vuoi mettere che quest'anno non ci siamo dovuti inventare scuse strane, ma che dovevano risultare comunque plausibili a chi ci ascolta? E io gli ho risposto: sì, sai gli anni che ho passato a dire no ragazzi non posso, c'ho la sindrome Kobayashi Maru, purtroppo a Pasquetta non posso mettere il naso di cazzo. Ho dovuto inventare. Questa però la capiscono in pochi, la sindrome. Ma no, dai, che qua nel nostro orticello la capiscono. Per i babbani. Guarda, te lo dimostro, Michela, che cos'è la sindrome Kobayashi Maru? Ma aspetta, che cos'è il test della Kobayashi Maru? Se no. E vabbè, accanto qualcosa che c'ha a che fare con Star Trek. Sì, qualcosa sì, brava. Dai. Hai visto? Dai. Sei politico. Ha superato solo un capitano in maniera non... Peccato che quando parlava guardava verso l'altra stanza invece che su microfono. Ragazzi, in chat al volo, Raffaella ci dice che lei ha passato la Pasqua con uno spaghettino sul balcone e immancabile alcol, e d'altra parte il consumo di alcol pro capite io credo che sia triplicato in questi giorni, me ne sono accorto da quanto vetro buttato ieri. Però soprattutto chi è Raffaella? Mi permetto di salutare Raffaella, che è una donna con le ovaie cubiche, e lo so perché l'ho visto la radiografia. Quindi. Ah, ok. Ma davvero? Ci frega tantissimo poi. Ma le voglio vedere le ovaie cubiche di Raffaella. No, ma cioè anche mio padre che fa il ginecologo le vorrebbe vedere. Se porno tolgo, Stacca tutto, stacca. Dico solo che lavora nella sanità, diciamo, quindi ho detto tutto. Okay. Quindi si sta proprio... in che senso allora? Vabbè, abbiamo capito. Comunque, ragazzi, c'è un articolo dell'Economist che dice: gli americani in quarantena stanno mangiando e bevendo di più, giocando molto di più ai videogiochi e guardando molto porno. E nel tweet in cui hanno linkato questo articolo c'è uno sotto che ha risposto: che dovremmo fare? E grazie al cazzo, esatto. Cioè, c'è ragione, che scritto bisogna anche dire poi che Pornhub che ha messo tutto gratuito lì, anche se ci chiediamo sempre, voglio dire, alla fine a che serve pagare la cosa a pagamento, ancora non abbiamo capito, però insomma qualcuno ce lo spiega. Allora cerchiamo un usufruttore della parte premium di Pornhub, forse, se vuoi, che ne so, i film interi con la trama, che ne so. Ma ci sono pure Simone, i film interi uguale, cioè nel senso... No, fermi, Simone, mi ha detto un amico. Ciao, Gore, ciao. Deve venire qua l'amico, perché sennò non ci credemo che è un amico. Sì, sei tu. Ora lo chiamiamo, non ti preoccupare. No, purtroppo è muto. Non fare l'accento svedese, però, eh. Assolutamente, con la faccia... sono l'amico. Dicendo che in realtà la differenza tra il base e il premium è che col premium c'hai la risoluzione in fino a 4K, dei film porno, ci sono dei contenuti premium, tipo c'è il Pornhub per la realtà virtuale. Beh, quindi se c'è con la riduzione della banda ha colpito anche Pornhub, il fatto che anche perché c'è stata un'impennata di consumo, per cui per contrappasso. Comunque, in pratica ci sono contenuti premium e l'altissima definizione. Fate un po'. Io mi ricordo quando uscì l'alta definizione, quindi quello che chiamiamo Full HD in gergo, no? C'era l'insurrezione del mondo del porno, non so se ve lo ricordate, parliamo dei primi anni 2000, perché c'era la preoccupazione che una definizione troppo alta esaltasse i difetti dei corpi, soprattutto delle modelle. Vabbè, sì, ma noi poi quello nel mondo porno non è alta definizione, è l'altra definizione, è diverso, capito? Cioè c'è tutta una filosofia proprio completamente, esatto, diversa. bravo tutta. Vabbè, ma quindi Clelia, quando se lo spedisce il pranzo, fateci capire, così come mi regolo. Scusa? Clelia, no, come c'è intenzione di mandarci il pranzo? Noi facciamo il picnic in balcone tra poco con i bambini. Come vi spediamo il pranzo col drone, se bravo, bravo. Ma piccunicu sì picchi, no, tra l'altro noi abbiamo il come si dice, la valigia di Vimini con dentro tutte le stoviglie per il picnic. È una roba vintage che abbiamo visto una volta, la valigia sul letto, quella di un lungo viaggio, sempre proprio per la piccolina, scherzi a parte, la vedemmo a Italy, mia moglie se ne innamorò, io gliela regalai per non mi ricordo quale ricorrenza, in pratica mai usata se non per come oggetto di scena per le foto che fa mia moglie alla roba che prepara. Oggi invece la usiamo sul serio. Io invece ho l'oggetto di scema, che è un po' una, insomma, così, non so se l'avete mai visto. Vabbè, io faccio la carbonara, regà. E poi mi finisco pure il vino che ho iniziato ieri, così mi inciucco proprio. Infatti, se avete sentito ieri però non riuscite. Non vedo l'ora di riascoltarla proprio, ragazzi. Era stupenda, era una cosa. Ragazzi, ma io invece sono curiosissimo da quello che Psichedelica. Abbiamo citato Andy Warhol più volte. Sì, scusa, però faccio poi. E davvero sono due magliette di quella. Davvero, dove mandare la foto? Prima di passare al Walter, che voleva dire una cosa, volevo farvi presente che Davide Gatti sta facendo l'aperitivo con tutto il condominio. Allora uno dice: ah, ma che cazzo, ma dai balconi. Ma io proprio di questo volevo riflettere, Simone. Sempre questa dicotomia tipica di Runtime, no? Perché va bene l'aperitivo sul balcone con tutti i condomini, mi sta bene, ma io alle 11:30 di mattina sono ancora al secondo caffè. No, io l'aperitivo alle 11:30 lo faccio, no? Sì, non è presto. Un pezzetto di Anzi, adesso è bravo, se mangiamo una pezzetta con un corrodino, ci mangiamo io e Michele. La pizza di Pasqua, che abbiamo la pizza di Pasqua romana dentro la pancetta. Ma tu devi considerare che noi festa o non festa, se svegliamo sempre abbastanza presto. Anche oggi se la siamo presa comoda, poi tra l'altro. però sono sveglia presto perché Michela stava a morire di Covid e quindi sto morendo, ho la febbre, oddio, ho sognato di avere la febbre alta e quindi niente, è preso brutto, ma lo comprendo. Ero svegliata che ero convinta di avere la febbre alta. Ti faccio prendere appuntamento con il dottor Pippo Campo che ma il dottor Pippo Campo c'ha 15 personalità, ma siamo sicuri che è tipo split. Pippo Campo è uno solo, poi dopo perché tu non è che chiamare adesso, secondo me vabbè, stanno comunque mo si è attivato per l'emergenza più dal punto di vista psicologico, giustamente, comunque al centro di ricerca là al Corcate stanno impegnando tanto, però... sa casino, sì, no, ma mai ci fece un master, mi fu molto utile soprattutto sulla gestione dei porconi praticamente, quindi nel senso non tanto nel gestire i propri porconi, ma nel cercare di svincolarli quando li vogliamo sopprimere. È stato molto utile, molto catartico, è molto funzionale. Comunque ci scrive paper su paper, no, è comprovato dal punto di vista scientifico. Poi i metodi, è comunque una persona molto umana, cioè ma si sente soprattutto quando soprattutto quando proprio le dopo aver spiegato la questione, quando applica il concetto della terapia, quella è la parte dove proprio tira fuori la parte più umana, insomma, diciamo così. Quindi sì, vabbè, bello. Più intimista, comunque lo fa col cuore, è un lavoro. Infatti con Sbano pensavamo di farlo tornare in trasmissione, sì, prossimamente, insomma, quindi. Vabbè, tu Sbano stavi facendo una riflessione, me li stavi dicendo. No, l'ho fatta, era quella sull'aperitivo alle 12:30 che mi sembrava prestino. Ieri sera si sentiva un casino, ragazzi. Ho detto: guarda qua, i soliti stronzi che stanno facendo festa. Invece c'era un tipo dalle parti cioè più giù dei via Gramsci, le stradine interne praticamente. Perché tutti gli ascoltatori in Italia sanno via Gramsci. No, vabbè, ognuno si può immedesimare nella propria, perché ti pare che non c'è una via Gramsci in ogni comune. Nella zona dei guardi, però la parte interna, praticamente qualcuno si era messo a fare il karaoke forse da qualche tetto, da qualche terrazza, eccetera. Quindi sti due che cantavano e poi incitavano gli altri balconi, quindi si sentiva praticamente un macello totale, che cioè non so come gli veniva tutta sta allegria. Io ero ubriaca ieri sera, quindi dicevo: ma come fanno questi? Erano ubriachi anche loro. E niente, però hanno finito. Cioè sono stati un'oretta buona a cantare cose improponibili. Allora, direttamente dalla Brace, per un minuto, per fare un saluto a tutti quelli che lo amano e lo adorano, c'è anche Alex Raccoglia. No, niente, c'è un momento di entusiasmo. Alex. Oh. Alex! In realtà sta cercando di parlare, credo, ma non lo sentiamo. No, lo sento, lo senti. Eccolo, sì. Eccolo. Bene. Si sta facendo un casino e praticamente ogni mio vicino di casa vi sta sentendo. Ah, vabbè, salutiamo. Astrozzi, che fate? Donnate? Allora, ciao a tutti. Allora, ho deciso che, visto che voglio platinare sta roba, sarò chiamato Platinet d'ora in avanti. E dovrò riesumare la mia foto Platinot con i capelli biondi. Pronto? Sì, platino. Devo riesumare la foto con i capelli biondi, che è quella con cui tra l'altro Pizzi mi ha conosciuto. Io ce l'ho, sono pieno di foto pure io. Perché c'è mia moglie che mi sta uccidendo per il fatto che c'è casino. Vabbè, ha ragione. Salutiamo Micaela. Ciao Micaela. Sì, saluta anche la Micaela. Lei ha il telefono con suo fratello. Niente, volevo solo dirvi ciao e scusate la mia assenza, ma oggi sto imparando a fare il barbecue, ragazzi. Non sono capace. Barbecue è buono il barbecue. Cioè, però non faccio la sarciccia de manzo, faccio la sarciccia de maiale. Il porco bue, non mangi il porco bue oggi. No. Oggi più maiale che manzo. Salutiamo Ivana, quindi. Alex, mi raccomando, ricordati, se proprio la situazione sembra diventare disperata, puoi usare l'asciugacapelli. Però non parlo di una questione tricologica, parlo del barbecue. Okay, no, comunque fai bene perché è buono il barbecue. Bravo. Sarà fatto. Ti approviamo. Ragazzi, un abbraccio a tutti quanti. Vi ricordo domani sera alle 21 Samba Radio. Runtime for Samba. La puntata corale. Anzi, se volete aggiungere canzoni, sono qui ben lieto. Bene. Vabbè, noi ce l'abbiamo di banco, bisogna registrare il contributo. Ok. Okay. Ciao ragazzi, buona giornata. Ciao, buona ciao Alex. Vabbè ragazzi, adesso proviamo solo a far entrare Davide, se ci riusciamo, e se no poi... Io intanto sto soffrendo molto, perché ogni volta che sento parlare di un barbecue per me è una fitta intercostale, perché è quello che io farei volentierissimo tutte le pasquette, quest'anno niente. Anche zio Mischi prima ci diceva che, vabbè, lui praticamente, da quello che ci ha raccontato prima in chat, è praticamente sta nella natura, col mare in lontananza, quindi sta bene, bello, pacioso e tranquillo, e oggi sta sbraciando allegramente al sole. Scusa Walter, ma intercostale quanto è finita? 4-4. Arrivederci ragazzi, io c'ho da fare dell'altro. Io vi giuro che per un attimo ho temuto che dicesse intercostina, quindi... Anche è uguale, quanto finisce intercostina? C'è Francesco che non è, che è proprio scappato, si è proprio buttato di sotto. Ma perché invece lui, le battute che fa lui sono belle, mazza. Comunque Cirasoglio ci dice che anche il suo vicino ha fatto il karaoke per 3 ore ieri, eh. Mamma mia, che palle ragazzi. Che tristezza. No, io c'ho dei simpatici ragazzetti giù che stanno mettendo musica neomelodica e quello brutto, palle, ma urlano come degli ossessi, ma davvero come dei gofer, come delle capre scoiate proprio. Ma sti ragazzi ci sono sempre stati o si sono palesati in questo... No, ma Lobby, la domanda è: te ne sei andato da Salerno fino a Reggio Emilia 800 km per trovarti neomelodici? Ma cioè, chi te l'ha fatto fare? Ce l'ha anche di fronte, no? Qua io purtroppo non ho la posizione strategica come Gualdi, ma pure mi divertirei a fare la diretta dal Cibali come fa lui, perché qui è tipo... Qui invece, come hanno visto... Ma sentite, raga? Sì. Sì, sì, sì. E porco due! Io avrei gridato mortacci vostra, che è un po' più... Ah no, esatto, Lobby, se la domanda era se sentiamo i neomelodici, no, sentiamo te. No, sentiamo un pochino. Qui è tipo la finestra sul cortile. Hanno visto Michela e Simone quando sono venuti qua. Quindi davvero qua, davvero ti affacci e vedi l'umarella lì che annaffia le piante. Ma vedi Andorione, che prendono il sole. E di fronte sono circondato da gente partenopea, diciamo così. Quindi vabbè, quando, okay, stai quasi la sanità del nord. No, ma la prima ma stavano sbattendo finestre, loro si stanno scatenando. Ma vado giù e faccio oppure mi munisco di mattarello, non metaforico, proprio mattarello. E tu sputa. No, grazie Girasoli, neomelodici, cioè, ma... non riusciamo a sentirli, però no, va, si bene, sentiva sotto il casino, si sentiva. Salina dice... che vai leggi tu. No, vai tu. No, dice che ci regala i suoi vicini, ne so qualcosa, me ne racconta spesso. No, ma scusa, la dobbiamo invitare in diretta, perché se ci dice che danno 100 giri a tutti, siamo curiosissimi. C'ha problema con Skype, non le funziona col computer. C'ha praticamente la memoria intasata sul cellulare. Ci abbiamo provato con Skype, un team perso. No, vabbè, dai, un giorno ci organizzeremo tecnicamente, no, e faremo in modo. Lei potrebbe raccontare molto, visto che stavo facendo con l'altro programma Everything le dirette dal mondo. Lei potrebbe raccontare un po' che sta succedendo in Russia. Non è fisicamente là, però comunque riceve ci notizie. Dice che non vogliamo sapere i suoi vicini. Noi invece vogliamo proprio sapere. Voi non volete. No, noi vogliamo sempre sapere anche cose. Abbiamo sentito talmente tante cose, carissimi miei amici. Noi che abbiamo sentite visto cose che sotto voi umani monti che... Esatto, bravo, esatto. Quindi insomma, intanto a Dalina io vorrei dire: c'ha Slivoi Passin. Sì, vabbè, cioè. Alina, mi ricordo, secondo me Michela, abbiamo speso un sacco di soldi per fare studi in Russia e questo è il risultato. Cerco di costringerla ad organizzarsi con Skype. Fate una puntata in cui parlate russo. Non lo so. Alina impara in russo. C'è l'ultimo messaggio che mi ha mandato. Ci ho messo 15 giorni per decifrarlo e non l'ho decifrato neanche tutto. Come faccio? Lo parlo io in russo, io lo so benissimo. Adesso che sto vedendo l'ultimo. Impara lei. Devi scrivere in cirillico, però lì non vale così. Se lasciavo i pascioi, quindi pascioi, vedi, che poi io non parlo russo, io ve lo spiego, io parlo sovietico, che è diverso. Io so sapete che vecchio io sono stampo, che è diverso, è diverso, è diverso. Bravo, bravo ragazzi, noi lo sapete, Simone lo chiamiamo CCC Pizzi. E tra l'altro non so se lei sta guardando, io sto guardando su Netflix La Via dei Dormenti, ma infatti oggi pomeriggio mi faccio brava così te l'hai no perché va bene, e tra l'altro l'attrice della Via dei Dormenti l'ho ritrovata in The New Pop, che ragazzi, cioè io vi consiglio di vedere super serie ragazzi, super serie, serie. Tra l'altro a Pasqua sto dicendo perché... praticamente non in diretto sto dicendo l'avete finita poi? Sì sì assolutamente sì. Allora sì, poi ne parliamo. Il mio giudizio è questo. Mi associo, David, mi associo. Si sarebbe inginocchiato. Grande, grande, veramente. No, inginocchiato no, però diciamo che direbbe a Sorrentino: bravo, hai imparato abbastanza bene. Bravo. Bravo, ma la prossima volta più nani che parlano il contrario. Sì, però tante zinne, bisogna riconoscere. Però ragazzi, la domanda mia sarebbe proprio questa: ma non è che in certi momenti Sorrentino tende un po' a esagerare con certe rappresentazioni? Come dire, morboso di mettercele fine a se stesse, o è solo un'impressione mia? No, stanno, guarda, veramente che ci stanno tante cose che stridono in quella serie, ma stridono al punto giusto, cioè nel senso che ogni cosa è messa proprio lì per un effetto, cioè veramente potente, cioè, potente, dei simbolismi meravigliosi, tipo quando ha sdoppiato Silvio Orlando, sì, quello è geniale, perché comunque, cioè, io quello che ho detto è che Silvio Orlando veramente se ne andrà dal mondo quando sarà più tardi possibile, con un regalo di un personaggio veramente di una caratura immensa, perché sì, forse il personaggio di Silvio Orlando è il personaggio migliore di tutta la serie, cioè comunque un gran bel personaggio. Il cardinale Mogliello in qualche modo incarna il Vaticano. Sì, incarna il Vaticano, sì, incarna l'umanità. Però bisogna, no, beh, vabbè, devi considerare che lui è grande prova attoriale, perché sì, due volte impegnativa, perché comunque lui poi ha dovuto recitare in inglese. Sì, ha dovuto recitare in inglese. Questo prima di tutto. Quindi una cosa veramente, già ha dovuto studiare le parti in quel modo, l'ha dovuta recitare in quel modo, e poi si è doppiato. Vabbè, il fatto che si è doppia si sente che è autodoppiato, sì, nel senso è una cosa un po' particolare. Però ragazzi, cioè, lui secondo me c'è una scena in particolare che veramente bisogna alzarsi. Ed è una serie strana, è difficile riuscire a incastonarla, cioè non è una commedia, non è una commedia amara, non è una commedia nera, non è politica. Non è tutto all'insieme di una serie di tanto quello che non è, esatto, è il vanto delle serie TV, di una serie di sequenze, di inquadrature veramente assurde, circostanze fuori di testa, dove c'è un po' quello che vorresti che fosse, un po' quello che sai che non sarà mai. E in più c'è, vabbè, secondo me delle scene, il tema pasquale, ragazzi, qua era azzeccato proprio. Sì, perché... ma poi cioè, veramente c'è la scena finale, quando lo guarderete, pensatemi, quando guarderete la scena finale, una delle scene poco vicino alla fine, che veramente, cioè, uno dice: ma porco due, cioè non è possibile. Sì, ma più che altro l'idea, l'originalità, sì, di alcune scelte, di alcune trovate, che veramente a me. No, vabbè, tu chi cazzo sei? Però dico, cioè, ci pensa, a me non mi sarebbe proprio mai passato per l'anticamera del cervello. Veramente una gran bella serie, va assolutamente vista. Ma stiamo parlando della scena quella che sembrerebbe un concerto e poi un'altra cosa. Cioè, veramente, ragazzi, no, veramente, secondo me va fatta l'esperienza di vederlo, anche per dargli una possibilità, perché comunque è un lavoro veramente concettuale di grande, cioè sono contenta che ci siano ancora registi che lavorano in questo modo, perché si sente la mancanza dell'arte. Che poi rispetto alla prima stagione, anche se poi vengono considerate entrambe prime stagioni, perché so virtualmente due serie diverse, seconda parte, sì. Però sarebbe comunque la seconda stagione di Young Pop, tant'è che infatti comunque il collegamento è diretto. Comunque l'aumento anche di attori della certa caratura, sì, cioè anche un investimento proprio anche Gianmarco economico, cioè, insomma, ragazzi, cioè, è una coproduzione anche con HBO, mica schizzi di calcio. Anche la prima stagione, sì, anche per quello che ci sono le teste. C'è anche un momento in cui appare Marilyn Manson. Cioè, ma anche Sharon Stone. C'erano, e fanno loro stessi, quindi è è interessante. Ma anche la diva lì, l'ha detto stampa del Vaticano, quando va a parlare praticamente con John Malkovich, praticamente con Ser, non mi ricordo come si chiama lui, quel personaggio. Sembra Annox che poi diventa papa, e va lì per convincerlo, e lei gli dice: lei mi ricorda tantissimo l'attore, il mio attore preferito, John Malkovich. Cioè. Sì, sì, no, ma su queste cose proprio non si è tirato, proprio non se ne è negata una. La Sorrentina è stato un fenomeno in questo. E poi è pieno dei chicchette, dei riferimenti. Se uno sa, fra qualche tempo me lo rivedrò poi, pure andrà all'altro. Di citazioni, sì. Vabbè. Assolutamente. Senti, già che parliamo di belle cose da vedere, visto che prima ho citato il Rione Sanità, se volete vedere una cosa un po' originale, un po' diversa dal solito, su Replay, quindi gratuitamente, potete trovare una nuova versione del sindaco del Rione Sanità, versione cinematografica, che sì, però è particolarissima perché è ambientata ai giorni nostri, ma con il copione esatto della rappresentazione teatrale, quindi tutti gli attori recitano con le battute originali dell'epoca. Particolarissimo, insomma, se volete vedere una cosa originale. Noi io e Michela lo dovevamo vedere al cinema, quella sì, l'avremmo visto al cinema, poi ci siamo persi, quindi lo andremo a vedere. Bravo, hai fatto bene a dicendo sta. Bravo. Sono contenta che è gratuito, insomma, è una bella cosa. Su Rai Play, sì. E invece a proposito di Sky, vabbè, dai ragazzi, io direi che no, scusa, vai, finisci. Vedevo i trailer di questa nuova serie, che peraltro anche questa credo sia una coproduzione italiana, che mi ha lasciato un po' meravigliato, perché il cast è internazionale, c'è anche Patrick Dempsey, che è quello di il medico di Grey's Anatomy, no? Però ci sono anche due attori, tra virgolette, italiani molto bravi, o meglio, cioè Alessio Borghi, che è un attore italiano molto bravo, ha fatto anche il personaggio a Stefano Cucchi nel film Netflix. E poi c'è Kasia Smutniak, che è un'attrice, credo di origine israeliana, se non ricordo male, famosa in Italia, perché insomma vive e lavora in Italia da anni, è stata la moglie di Pietro Taricone, eccetera. Polacca, non è israeliana. Scusami, no, mi sono confuso con... Sì, ok, con Mara Nattias, ok. Pensavo che il gado. È Polanka, il cantante. No, ma la cosa particolare mi ha fatto strano, almeno dai trailer, che Kasia Smutniak, che non è italiana, interpreta un personaggio italiano, si doppia da sola. Alessio Borghi c'ha la voce del il doppiatore, non ricordo come si chiama, però è quello che doppia molti personaggi in questo periodo, è anche il doppiatore di Star-Lord e di altri personaggi, diciamo di altri attori abbastanza recenti. Non riesco a capire come mai Alessio Borghi in particolare non si sia doppiato da solo. Io lo trovo bravo, è strano che non ci sia riuscito. Questo che non è buono, magari che sta lì, non so capace. Però fa un effetto stranissimo. È un'arte, mi state dicendo. Ma state dicendo quindi che c'è una serie con Patrick Dempsey e Borghi? Esce su Sky il 17. Ok, quindi cioè, è il sistema per acchiappare il pubblico femminile di Sky in Italia. Sono i due attori più. No, che poi tra l'altro, mentre parlavamo di The New Pope, mi sono ricordato un'osservazione di mia sorella che ha detto: no, ma magari ad avere un papa come quello, sai quante donne tornano alla fede con un papa buono come... cacchio si chiama? Oh, madonna, mi è sfuggito il nome. Ma tu parli di ma un papa buono, non buono? Sì, no, quello infatti è un papa buono, perché poi se buono non c'è un cazzo. Buono non c'era. Buono non era davvero, insomma. Però è bello, Lenny col cognome Belardo, sì, bravo, poi su tutti i cognomi. Vabbè. Ma regalo, dovete vedere, perché c'è da farci un puntatone su sta cosa. Sì, direi sì, una specie di retrospettiva approfondita, perché comunque poi sapete, io non è che sono uno che non ha molto senso critico. Cioè, nel senso, difficilmente critico una cosa, nel senso che non mi è piaciuta, però è vero anche di solito non mi esalto neanche particolarmente. Invece, in questo caso, veramente bisognerebbe farci una puntata proprio specifica su questa cosa qua. Insomma, quindi guardatevelo il prima possibile, poi lo faremo. Vabbè. Io mi sa che vi saluto. Ci siamo fatti la nostra oretta, ragazzi. Io credo che, insomma, l'occasione era solo questa, insomma, di cazzeggiare un po' insieme. L'abbiamo fatto. Voglia a cazzeggiare, aspetta però, aspettate il secondo che forse... Vai, parla tu però nel frattempo. No, ci godiamo il sottofondo del pupo. Che ci vuole dire qualcosa, pensando. Anche lui ha visto The New Pop e secondo me salute. Ha già capito che... Ciao Pietruzzo! Fai ciao. C'è Davide che mano. Vuole entrare? Oh, e ti dico aspetta. È così, dai, Rovi, hai spoilerato, vai. Se non sapete fare la radio, Aprite un canale YouTube se non sapete far radio, che cavolo. Allora diamo il benvenuto a colui che ha fatto l'aperitivo al condominio. Sì, parli, intervenga. Buongiorno a tutti, se mi sentite. Ti sentiamo. Ciao Davide, benissimo. Auguri. Ciao Dave. Vabbè, noi ti sentiamo, ma mi sa che tu non senti noi, perché... Io sento. Ok. Niente, no, volevo solo fare questo. Io vi sento attraverso Spreaker, per cui sono in ritardo pazzesco. In pratica vi faccio gli auguri a tutti. Siamo qua a fare questo aperitivo con i condomini su vari piani e su varie colonne, e brindiamo tutti con i bicchieri fuori sul balcone e salatini, cotillon, ci scambiamo foto su WhatsApp, insomma stiamo festeggiando così un po' la Pasquetta fra condomini. È una cosa veramente carina. Vabbè Davide, dai, allora facciamo così, che tanto se no, se ci senti in lag di un minuto e mezzo, insomma comincia a diventare complicato. Io saluto tutti a questo punto, no? Giusto per ci tenevamo a averci pure Davide un pochetto di quei tre secondi, insomma ci ha fatto piacere. Anche una bella iniziativa questa dell'aperitivo. Quindi io ringrazio Walter che ci ha avuto l'idea. Grazie. Ma vi pare, insomma, era doveroso, ci ha fatto piacere a tutti, siamo stati benissimo quest'oretta, grazie e ancora buona Pasquetta a tutti. Bene, ringraziamo a tutti e buona Pasquetta anche da parte mia. Perfetto, grazie Davide, grazie a Francesco. Salve a tutti, io vado a cucinare, forse ma mangio C e C mi mangio. Che non sappiamo. Capo e cazzo. Ah, capo e cazzo, ok. Capo e collo. Esatto. Beh, però vedi che ci siamo quasi. E ringraziamo anche ovviamente Muccio e tutta la family. Ok, oh, io ripeto, best Pasquetta ever. Vado a mangiare anch'io, che mi aspetta la pizza e mozzarella. Guarda Carmine, che noi ci stiamo preparando, eh. Carmine la ben... comunque va bene. Puccio, dopo ben quanti anni sono passati dalla Foresta Nera? Tre anni. Nel 2017. Ti serviremo anche il quarto anno, eccetera, poi ti riportiamo in giro per il mondo, Sappi. Io vi ripeto, voi se mi fate guidare sono contento. No, andare in giro per notte. No, tu quindi troppo piano. Dovremmo prendere due mezzi sicuramente. No, se c'è un bar camper di mezzo, bisogna andare piano. Esatto, e poi ci sarà il bar camper. Il bar camper bisogna andare piano. C'è ragione. Devi portare pure tu il bar camper. Bene, ciao Michela, grazie di tutto. Ciao a tutti. Ragazzi, fatemi solo salutare al volo gli amici in chat, che veramente oggi erano tantissimi. Abbiamo in ordine sparso Girasole, Michela, Giacomo, Zionomski, Scorro, ma quanti eravate? Quanti messaggi ci sono? Vabbè, insomma, Giacomo, tutti quanti, come l'avessi Alina. Fatto. Un abbraccione ragazzi, buona Pasqua. Alina, Raffaella pure, tutte le ragazze, e poi mi sembra che abbiamo finito. Vabbè, ciao.